Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Molto bene, andiamo a celebrare l'amore. Dite la verità, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che si sia sostenitori o detrattori di Marino, bisogna dire che ha una qualità straordinaria, che è quella della resilienza, cioè quella capacità dei corpi di certi materiali di prendere colpi senza distruggersi, anzi riprendendo la forma di prima. L'avete sentito? Vado a celebrare l'amore, ha detto questa mattina ai giornalisti Marino, un po' come facesse finta di niente dopo la burrasca di ieri. È andato naturalmente in municipio a celebrare un matrimonio. Ieri aveva detto, in questa sua lettera in cui annunciava le dimissioni, che comunque aveva 20 giorni nel caso per ritirarle. Probabilmente non ci crede più neanche lui oggi, però insomma intanto deve svolgere i prossimi 20 giorni delle attività di ordinaria amministrazione, quindi continuerà a esserci in Campidoglio e continuerà a essere anche nei nostri pensieri. Quello che vi chiedo stasera, di Marino parleremo molto nella puntata di oggi, è secondo voi Marino che personaggio è ed è stato? Nel senso, sapete che c'è chi dice che è stato onesto ma incapace, c'è chi dice che invece è stato un capro espiatorio, chi un furbo oppure un ingenuo che poi è scivolato sugli scontrini, un autolesionista come molti l'hanno definito. Per voi che cos'è, chi è e che cosa è stato il sindaco di Roma Marino, ex sindaco a questo punto? Potete come sempre intervenire attraverso due canali privilegiati qui a Effetto Notte, che sono la pagina Facebook, che è sempre lì per voi in qualsiasi momento, giorno e notte, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure mandare gli sms al 349-238-6666. Vi dico anche che c'è stato il primo caso di influenza a Bologna, è un'anziana al Policlinico Sant'Orsola, un anticipo rispetto al previsto, dicono che è il primo in Italia e uno dei primi in Europa. Io mi faccio una domanda, come fanno a sapere? Tutti quelli che hanno l'influenza vanno in ospedale? Se avessi io per esempio l'influenza, mi hanno calcolata in mezzo, comunque così, una domanda che mi veniva tanto per alleggerire, diciamo, sulle questioni così pressanti e così ponderose. Comunque parleremo, vi dicevo appunto, di Marino, della politica, un bilancio come sempre della politica il venerdì qui a Effetto Notte, e poi il Nobel per la pace, sono fatti tanti nomi, e poi a chi è andato questo Nobel per la pace, parleremo anche di questo qui a Effetto Notte. Voi cominciate con le vostre riflessioni, qualcuno già ha scritto sulla pagina di Effetto Notte, io intanto vi riassumo prima di cominciare poi con gli ospiti la giornata. Le dimissioni di Marino verranno depositate lunedì, durissimo il Vaticano che dice lascia solo macerie e si apre il toto nomi dei partiti. Medio Oriente, violenti scontri a Gaza, morti 6 palestinesi, diversi feriti, Hamas lancia la nuova intifada. Stati Uniti, sparatorie in un'università del Texas, un morto e il killer è stato arrestato. La denuncia dell'ONU, bimbi uccisi in Brasile per ripulire Rio in vista delle Olimpiadi dell'anno prossimo. Politica italiana per il nuovo Senato, manca solo il voto finale, Renzi commenta e dicevano che non avevamo i numeri. Scuola, studenti in piazza contro la riforma, in 60.000 sfilano in diverse città. Migranti, con oggi è partita la prima parte di ricollocamenti, i primi 19 partiti dall'Italia per essere trasferiti in Svezia. Maltempo, allarme in Sardegna, codice rosso e scuole chiuse, temporale in arrivo su tutto il centro-sud. Influenza, autorizzati i vaccini, parte la campagna antivirus, il primo caso dell'epidemia in anticipo a Bologna, colpita un'anziana. E per il Nobel per la pace è stato assegnato al quartetto del dialogo in Tunisia per il contributo alla costruzione della democrazia. Partiamo quindi, anziché subito da Marino, da una nuova sparatoria in un campus negli Stati Uniti. Ormai, come ha detto nei giorni scorsi, come ha riconosciuto Obama, è routine in America. Questa volta è successo in una università del Texas, a Houston, il bilancio di un morto e un ferito, il killer è stato fermato dalla polizia. E poi la denuncia dell'ONU, una denuncia che è arrivata poco fa con un'agenzia, l'ONU ha accusato la polizia brasiliana di uccidere bambini per ripulire la città e soprattutto Rio de Janeiro in vista delle Olimpiadi dell'anno prossimo. L'accusa viene mossa dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, citato dai media brasiliani, tra cui il sito del quotidiano Estadão. Non è naturalmente una novità per il Brasile questo degli squadroni della morte che fanno fuori i bambini di strada. Siamo sulle notizie italiane, sulla politica italiana, restando ancora naturalmente sulle dimissioni del sindaco di Roma Marino. L'atto formale verrà formalizzato solo lunedì prossimo, mentre i partiti, ad eccezione di SEL, già parlano del post Marino. Ha celebrato anche il matrimonio di una coppia di amici, ma nel suo primo giorno da sindaco dimissionario Ignazio Marino ha lavorato soprattutto ai dossier ancora aperti, specie a quelli legati al giubileo. Smentendo gli annunci arrivati in mattinata, il Campidoglio ha fatto sapere che le sue dimissioni verranno formalizzate lunedì. A quel punto partirà il conto alla rovescia che entro 20 giorni, salvo clamorosi ripensamenti, porterà alla nomina di un commissario da parte del prefetto Gabrielli. Nel frattempo, da SEL arrivano un po' a sorpresa caute aperture sulla verifica politica chiesta ieri da Marino per il vice sindaco Causi, però i margini per una ricomposizione non ci sono. Non credo che nei prossimi giorni questa condizione possa modificarsi. Dobbiamo pensare, secondo me, ad altro, cioè dobbiamo pensare a fare in modo che questa crisi non abbia un impatto negativo sulla città, soprattutto dal punto di vista della piena continuità e velocità dell'attuazione degli interventi relativi al Giubileo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Roma si è svegliata senza sindaco e così resterà fino alla prossima primavera, quando si terranno le elezioni. Inizia la nuova era del dopo Marino e nei partiti impazza il toto nomine. Matteo Renzi sembra essere contrario alle primarie, alla ricerca di un suo candidato, ma il PD smentisce il mancato ricorso alla consultazione con i cittadini. Così Stefano Esposito, ex assessore ai trasporti. Non è una decisione definitivamente assunta, credo che le potremmo fare, ma quello che conterà sarà la scelta della persona. Tre candidati del partito del premier Alfonso Bella, Raffaele Cantone, Giovanni Malagò, Roberto Giachetti, Alfio Marchini, ma c'è chi parla di un candidato nascosto del premier nel prefetto Franco Gabrielli. Nel Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista rinuncia per ora alla candidatura malgrado il pressing della base. Matteo Salvini della Lega sceglie invece Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, mentre Silvio Berlusconi lavorerà per un centrodestra unito. Sul mondo politico incombe l'accusa del Vaticano. Roma non merita tutto questo a 2 mesi dall'inizio del Giubileo, ha solo la certezza delle proprie macerie. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per le riforme, quella del Senato è quasi addirittura d'arrivo, manca solo infatti il voto finale. Oggi è stato approvato anche l'articolo 38 del disegno di legge Boschi, con 161 sì, 88 voti contrari e 4 astenuti. Il voto finale su questo disegno di legge avverrà martedì 13 ottobre, quindi all'inizio della prossima settimana. E per quanto riguarda invece la legge di stabilità, arriverebbero circa 300 milioni di euro, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, le risorse che il governo, quindi 300 milioni di euro, le risorse che il governo sarebbe orientato a stanziare con la legge di stabilità per il rinnovo del contratto nel pubblico impiego per il 2016. Siamo di nuovo all'estero, in Medio Oriente, ormai un crescendo di violenze, morti 6-7 palestinesi, adesso leggo delle agenzie, anche un ragazzo di 15 anni, incidenti anche in Cisgiordania, nella città santa e vicino a Hebron, 2 israeliani sono stati accoltellati, uno dei feriti a 14 anni, un aggressore è stato ucciso dalla polizia, insomma un lungo elenco. Poi parleremo di questa recrudescenza di violenza nel Medio Oriente, di questa nuova intifada. Intanto in Libia pare si sia vicino a un accordo tra le delegazioni che lavorano a un governo di unità nazionale promosso dall'ONU. I parlamenti di Tobruk e Tripoli, sapete che ci sono 2 governi, dovranno ratificarlo entro il 20 ottobre. And we believe that this list can work, but as I said, dopo più di un anno di negoziati è pronto un governo di unità nazionale per superare le due anime della Libia. Il governo riconosciuto di Tobruk e quello islamista di Tripoli. Lo ha annunciato il rappresentante ONU per la Libia, Bernardino León, che ha indicato come premier Fayez Sarraj, attualmente deputato a Tripoli. Entro il 20 ottobre i due parlamenti dovranno ratificare l'accordo, anche se il percorso non si preannuncia dei più facili. Non siamo stati consultati, protesta alla BBC il parlamentare di Tripoli Abdul Salam Bilashair. Il governo creerà divisioni, dice un suo omologo di Tobruk. Nel frattempo, su Twitter, molti abitanti della capitale promettono resistenza. Ma questo compromesso piace all'Unione Europea, che tramite l'alto rappresentante agli affari esteri Federica Mogherini annuncia non solo il proprio sostegno politico al neogoverno, ma anche un aiuto da 100 milioni di euro, pur di colmare il sostanziale vuoto politico della Libia. Alberto Battaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo di migranti. Sono, per quanto riguarda l'Italia, sono 19, ieri 3 che erano sbarcati pochi giorni fa a Lampedusa, che sono partiti stamattina da Ciampino in direzione Svezia per i primi ricollocamenti previsti dal piano di ricollocamento di 160.000 migranti su base europea. Sapete quei vertici che ci sono stati in cui è stata presa questa decisione a livello europeo. Il ministro dell'Interno Alfano ha spiegato che entro 2 anni saranno 40.000 in partenza dall'Italia di richiedenti asilo. Con gli Eritrei nel trasferimento a Roma c'erano anche i mediatori dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. E sentiamo allora la portavoce per il Sud Europa, Carlotta Sami, al microfono di Nazareno Orlandi. Oggi sono 19 e sono 5 donne. È un primo passo importante per noi, un momento di svolta. Dopo un primo momento alcuni giorni fa in cui non capivano, non conoscevano questo piano, lì appunto siamo intervenuti noi, come faremo sempre, per spiegare di cosa si tratta. Ora sono molto sereni, sono contenti, si sono subito sentiti protetti, hanno fatto un viaggio in pullman dalla Sicilia, li abbiamo anche accompagnati noi dalla Sicilia a Roma, sono stati ospitati in una residenza protetta a Roma e poi questa mattina l'hanno lasciata con un pullman accompagnati da noi dal Ministero degli Interni qui. Parliamo di scuola, circa 60.000 studenti sono scesi in piazza oggi in tutta Italia per protestare contro la riforma della buona scuola del governo Renzi. Per una legge che tuteli il diritto allo studio, per una scuola pubblica e gratuita, Buona per davvero, in cui ci sia una riforma dei cicli e il diritto allo studio finanziato. Ecco quello che chiedono gli studenti scesi in piazza oggi. Alberto Irone, portavoce della rete degli studenti medi. Siamo contrari all'idea di valutazione che ha portato avanti il governo, ai comitati di valutazione che decidono la premialità dei docenti. Siamo contrari all'impostazione generale della riforma, perché la crediamo un tradimento dell'autonomia scolastica. A fianco degli studenti delle scuole superiori, anche quelli dell'università. Jacopo Dionisio, dell'Unione degli Universitari. Il fatto che il diritto allo studio sia considerato marginale per noi è assolutamente evidente dalla questione del nuovo ISEE, che sta sostanzialmente cacciando fuori dal sistema del diritto allo studio decine di migliaia di studenti capaci e privi di mezzi, che quindi hanno diritto ad una borsa di studio. Livia Liberatore, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Spostiamoci nuovamente all'estero con le operaie della Fiat Chrysler che firmano contro le divise bianche e parte una polemica. A decidere il colore delle tute per gli operai della Fiat Chrysler non deve essere stata una donna. Alla perplessità dei lavoratori che definiscono le nuove divise bianche pigiamoni, si aggiunge infatti il disagio tra le operaie. La questione è stata sollevata dalle donne dello stabilimento lucano di Menfi, che si sono lamentate di dover indossare pantaloni chiari nei giorni del ciclo mestruale. È facile macchiarsi facendo questo lavoro, sostengono, e restare con tracce visibili sul bianco crea imbarazzo. Ma l'idea di cambiare il colore delle tute dopo averne già distribuite oltre 300.000 in giro per il mondo non è piaciuta all'azienda, che ha pensato di soddisfare la richiesta annunciando di fornire delle culotte da indossare sotto la tuta. Risposta che ha lasciato di stucco i sindacati e ricorda Lino Banfi di fronte alla discutibile cortesia del suo responsabile in un noto film. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Beh, diciamo, senza voler entrare in polemica, però a parte la questione delle mestruazioni, anche diciamo una cosa bianca per chi lavora, diciamo, col corpo, è facile che si sporchi. Comunque, passiamo al maltempo. Allarme in Sardegna, codice rosso e scuole chiuse, temporali in arrivo in tutto il centro-sud, in particolare sul versante tirrenico, ma poi qui effetto notte, più tardi sentiremo come sempre il nostro meteorologo. E a proposito di maltempo, arriva l'influenza, autorizzati i vaccini, parte la campagna antivirus che parte dalla metà di ottobre fino a fine dicembre, in circolazione ci sono 4 virus. Il primo caso di epidemia è arrivata in anticipo a Bologna, colpita quest'anziana. Il caso di Bologna è uno dei primi 5 in Europa e ponevo così mestamente il mio dubbio, come fanno a sapere che è la prima in assoluto in Italia. Non credo che vadano tutti in ospedale quelli che sono influenzati. Comunque, al di là di questi dubbi, voi continuate con le vostre opinioni sul sindaco Marino, chi è stato, cosa è stato onesto ma incapace, è stato un autolesionista, un capro espiatorio, oppure faceva il moralizzatore e poi è scivolato sulla questione degli scontrini. Scrivete i vostri messaggi, leggo per esempio al 349-238-6666, scrive questo ascoltatore o ascoltatrice, è semplicemente incapace di amministrare. Poi invece un altro, Marino il meno peggio di tutti, dà fastidio perché è il meno disonesto, i romani fanno veramente schifo, ma da sempre, diciamo. Qualcuno che incominciano i campanilismi. Poi Marino ha pestato i piedi al Vaticano e lo sanno anche i bambini che a Roma i conti li devi fare con il Papa. Insomma, tanti dei vostri messaggi, continuate sulla pagina Facebook di Effetto Note e al 349-238-6666. Ci riprendiamo dopo la viabilità. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, tra poco cominceremo a fare il bilancio della politica di questa settimana, che bisogna dire comunque tutta pervasa dalle dimissioni di Marino sicuramente, anche se è arrivata la notizia nel tardo pomeriggio che è passato anche l'ultimo articolo della riforma del Senato e poi ci sarà il voto finale la prossima settimana. Comunque, voi continuate con i vostri messaggi, le vostre opinioni su questa vicenda di Marino, sia sulla pagina Facebook di Effetto Note, sia al 349-238-6666. Antonio da Rimini scrive: Marino è uno che purtroppo ritroveremo a breve in qualche programma televisivo. Invece, appunto, diceva un altro ascoltatore, Marino ha pestato i piedi a qualcuno di importante. E poi Marco: Marino è stato il Totò, De Curtis, il comico della Città Eterna, se non l'avessimo visto non ci si poteva credere. Roberta dice: Daniele, Marino dovrebbe resistere, Roma aveva intrapreso una strada di civiltà che contrastava finalmente poteri forti e mafie, peccato. Ecco, tanti i vostri pareri, insomma, tra sostenitori e detrattori. Vi ricordo prima di tutto le notizie più importanti della giornata e poi ci addentriamo nell'argomento. Continua la violenza in Medio Oriente, morti 6 palestinesi negli scontri con l'esercito israeliano. Hamas vuole liberare Gerusalemme con una nuova intifada. Marino, dimissioni saranno ratificate lunedì e il Vaticano dice lascia solo macerie. Orfini, presidente del Partito Democratico e commissario del PD a Roma, dice è stato minato il rapporto con la città, mentre comincia il toto nomi dei vari partiti. Nuovo Senato approva gli ultimi articoli, martedì il voto finale. Renzi dice: e poi dicevano che non avevamo i numeri, visto com'è andata? Dice orgoglioso. Poi Poste: da lunedì parte l'offerta pubblica sul 38,5%. E poi ancora i migranti, primi 19 sono partiti oggi dall'Italia nel programma di ricollocamento, sono partiti per la Svezia. Nobel per la pace al quartetto del dialogo in Tunisia. Dopo 27 mesi da sindaco, ieri eravamo poco dopo le sue dimissioni in diretta qui a Effetto Notte, ne abbiamo parlato insieme, io con voi ascoltatori e con gli ospiti che c'erano. C'era Marcello De Vito, che è capogruppo del Movimento 5 Stelle a Roma, è il Movimento 5 Stelle che ha sollevato questa questione degli scontrini, e c'era Andrea Romano del PD, diciamo che nessuno dei due chiaramente l'ha molto difeso. E ieri Marino, dopo questa giornata sicuramente infernale, penso la peggiore giornata che abbia mai vissuto in vita sua, credo, ha poi detto in questa lettera delle sue dimissioni, ha detto: ma in realtà ci sono ancora 20 giorni, una cosa che a molti ha fatto, a qualcuno ha fatto sperare, altri si sono molto irritati. Dovremmo sentire questo passaggio. Un dibattito surreale sugli scontrini e delle spese con la carta di credito per rappresentanza del sindaco, scontrini che io ho messo sul sito online del comune proprio per avere una totale trasparenza, e dopo si è sviluppato il dibattito. Bene, io voglio mettere un punto, voglio che si rinizi a concentrarsi sui veri problemi, le vere sfide della nostra città, e quindi ho deciso di regalare quei circa 20.000 euro spesi per rappresentanza del comune alla città. Questa era la difesa, diciamo, due giorni prima, se non sbaglio, diceva questi 20.000 euro che qualche ascoltatore diceva: noi abbiamo pagato in tasca nostra questi 20.000 euro che ha speso Marino. In realtà non è accusato di tutti quei 20.000 euro spesi in modo sospetto, ci sono alcune cifre. Adesso però torniamo invece su quello che ha detto ieri una volta che si è dimesso. Ma esiste un problema di condizioni politiche per compiere questo percorso. Queste condizioni oggi mi appaiono sottigliate, quasi assenti. Per questo ho compiuto la mia scelta, presento le mie dimissioni, sapendo che queste possono essere per legge ritirate entro 20 giorni. Non è un'astuzia la mia, è la ricerca di una verifica seria, se è ancora possibile ricostruire queste condizioni politiche. In realtà vi dicevo che già oggi lui, dopo i commenti degli stessi componenti del suo partito, esponenti del suo partito, ha capito che insomma rimarrà in carica ancora questi 20 giorni, in realtà giusto per questioni di ordinaria amministrazione, come oggi quel matrimonio che ha celebrato, ha detto vado a celebrare l'amore. Ma chiedo a Fabrizio Forché, che è sempre con noi qua il venerdì, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Che bilancio possiamo fare di quello che sono stati 848 giorni, 27 mesi da sindaco di Marino? Si sprecano i commenti naturalmente, però c'è chi dice che è stato un sindaco onesto ma incapace, c'è chi dice che era troppo debole per riuscire a cambiare i meccanismi di qualcosa che governa Roma, che in realtà evidentemente non è un sindaco, visto che di volta in volta si diceva sono i Casamonica, sono i Buzzi, i Carminati, oppure il moralizzatore che è scivolato sulla questione degli scontrini. Ieri se ne parlava, anche se c'era Jacopo Iacoboni che diceva in realtà questa è poca roba, c'è qualcosa dietro, non posso credere che sia stato mandato via per questo, è un autolesionista, è un marziano in senso positivo e in senso negativo. Che ne pensi tu, Fabrizio? No, vedi, i vari giudizi, io credo quello prevalente era è onesto ma incapace. Tu hai letto uno dei possibili giudizi, io credo questo era un po' il giudizio più diffuso a Roma, e lui viene va a cadere, va a finire la sua esperienza proprio quando sull'aspetto morale lui viene toccato, perché finché aveva la bandiera da sbandierare della qualità morale, dell'integrità morale, lui si è difeso bene in questi mesi, è riuscito a resistere malgrado tutto gli venisse meno intorno, perché aveva questa bandiera della moralità. Si è dovuto dimettere quando anche quella bandiera è venuta giù, quando sul scandalo degli scontrini ha dimostrato di non sapersi difendere, si è difeso in maniera incongruente, ci sono state testimonianze di direzioni diverse, insomma il Marino che ha sbandierato la moralità per questi mesi, per questi anni, non l'ha potuto più fare e quindi è andato alle dimissioni. Ma è chiaro che queste dimissioni però non si fondano sulla questione degli scontrini, ma Marino paga quello che non è riuscito a fare nella gestione della città e soprattutto nel risolvere i grandi nodi economici che lui aveva ereditato quando è diventato sindaco. Non li ha causati lui, ma non ha mai dimostrato la leadership e la capacità amministrativa per risolvere i problemi economici enormi di Roma. Enormi, come dici tu, chissà se appunto chi potrebbe esserne capace. Comunque, fra le cose, adesso ho visto anche una petizione che lo sostiene. Adesso dopo vado a rivedere l'indirizzo, qual è, ci sono tra questi anche Fiorello, Alessandro Gassman, insomma tra quelli che gli chiedono di resistere, di ritirare le dimissioni. Comunque diciamo che sì. Lui aveva ancora forse un'immagine comunque del sindaco pulito che ha provato ad affrontare i tanti malaffari di Roma. Però su questa cosa degli scontrini voglio dire, è una banalità in sé, però quando tu hai tanto sollevato la questione morale, poi come dire sei incastrato perché giustifichi e fai pagare al comune per spese di rappresentanza e tue cene private, evidentemente anche questa che è in sé una piccolezza ma diventa enorme per chi ha fatto appunto della moralità la sua bandiera. Ecco, questo sito è il change.org, una petizione ha raccolto 6.500 sostenuto firme finora, e appunto tra queste ci sono Fiorello e Alessandro Gassman. Ma sentiamo, ieri c'era Fabrizio Forché qui a Effetto Notte, tra gli ospiti c'era per esempio Andrea Romano del PD. Sentiamo due passaggi, il primo dove parlava di questa cosa appunto degli scontrini, del motivo per cui si sarebbe dimesso Marino, e poi anche il PD l'ha sostenuto o non l'ha sostenuto, sentiamo. Marino si è dimesso per un fatto preciso e non è un fatto irrilevante, ovvero l'ipotesi secondo la quale soldi pubblici, perché di questo si tratta, siano stati utilizzati per spese private. Non è tanto il costo del vino, il costo della cena, quanto un fatto più elementare e più grave, sempre in ipotesi, ovvero che il sindaco di Roma abbia usato una carta di credito pagata da tutti noi, dai cittadini, per spese che non sono di rappresentanza ma spese private. Se aggiungo che fatti di questo tipo ovunque in Europa, nei paesi normali, portano alle dimissioni. Il Partito Democratico ha sempre sostenuto il proprio sindaco, perché di questo si trattava, quando il proprio sindaco svolgeva le funzioni che stava svolgendo bene o suggerendogli e pungolandolo a fare meglio quando queste funzioni non erano svolte bene. Il Partito Democratico non ha alcuna paura di andare al voto. Andremo al voto e il nostro partito presenterà un candidato che avrà, vi assicuro, una forza molto considerevole. Gli ho chiesto il nome e non me l'ha detto naturalmente, però è venuto fuori Fabrizio Forché, sono venuti fuori vari nomi, da Cantone a Gabrielli, anche alla Madia, che forse magari mi piacerebbe una donna sindaca di Roma, però non credo che abbia, diciamo, il profilo in questo momento. Ma secondo te il PD l'ha sostenuto, come sostiene qualcuno, e dall'inizio che non era molto convinto e non l'ha mai molto appoggiato? Non è mai stato convinto di Marino. Marino è diventato sindaco tra le divisioni del PD, un partito che è in fortissima crisi a Roma, tant'è, voglio dire, che Orfini ha dovuto in questi mesi fare tutta un'opera per cercare, diciamo, di ricostruire un partito che è davvero allo sfascio. E anche Renzi credo l'abbia sopportato molto a fatica in questi ultimi mesi, però Renzi aveva ben chiaro che voleva evitare proprio queste elezioni. Io non credo, Andrea Romano, lo capisco quando stretta sicurezza, ma io non credo che il PD abbia tutta questa sicurezza in vista delle elezioni. Tant'è vero che Renzi ha provato in tutti i modi, appunto, di mantenere Marino in piedi, malgrado le sue debolezze, malgrado tutto quello che stava accadendo, proprio perché voleva evitare questa prova del voto a Roma. Il PD va a questo voto in una condizione disastrosa. Deve trovare davvero un candidato molto molto forte per essere competitivo alle prossime elezioni. Invece Fabrizio Forché, a parte il centrodestra, Salvini in particolare, che lancia la Meloni di Fratelli d'Italia, c'era anche, sempre qui effetto notte, ieri Marcello De Vito, che è capogruppo in Consiglio Comunale a Roma per il Movimento 5 Stelle. Loro si sentono sicuri che Roma avrà un sindaco. Grillino, sentiamo ieri che cosa ha detto. Questa è stata un po' la ciliegina su questa torta avvelenata che è stata servita ai cittadini romani negli ultimi due anni. Non è vero che c'è stata discontinuità rispetto ad Alemanno, c'è stata una perfetta continuità in questa consigliatura, non lo dice De Vito al Movimento 5 Stelle, ma lo dicono le relazioni, ad esempio la relazione dell'ANAC, cioè al Partito Democratico è risultato pienamente coinvolto in queste indagini, con persone che Marina all'inizio della consigliatura dichiarava essere sue fiduciarie. Sono stati arrestati dei finanziatori del Partito Democratico e dello stesso Marino. E poi ha detto De Vito, come ripeto il Movimento 5 Stelle da diverso tempo, che sono sicuri che appunto Roma avrà un sindaco Grillino. Senti, però mi chiedevo, Fabrizio Forché, in questi 848 giorni, questa parabola di Marino, che era nata sotto l'aspettativa, la promessa di un rinascimento, no, di Roma che non c'è stato, probabilmente è molto difficile anche riportare Roma, diciamo, agli splendori, ma qualcosa di buono ha fatto la pedonizzazione dei fori, poi la chiusura della discarica di Malagrotta ha, credo, tolto dalle zanne di molti, non so se dire criminali, ma sicuramente faccendieri, appalti vari, no? Qualcosa di buono ha fatto? Ma sicuramente ha fatto qualcosa di buono, queste cose che tu citavi gli vengono anche riconosciute. Ma ha pestato i piedi a qualcuno? È possibile che abbia pestato i piedi a qualcuno? Guarda, io non credo sia questo. Ora, ogni volta quando c'è qualcuno si deve dimettere, è facile dire sono stato oggetto di una campagna perché ho toccato i poteri forti. Non è questo, insomma. La popolarità di Marino a Roma è molto bassa, ha ancora una fetta di sostenitori, ma la maggioranza dei romani vedono in questa amministrazione un'amministrazione abbastanza fallimentare. Io ti ripeto, credo che le colpe di Marina affondano nella incapacità di aver gestito le grandi emergenze economiche di Roma. Insomma, all'ATAC si sono dimessi dirigenti che erano stati messi da Marino, all'ATAC non si è riuscito minimamente a affrontare quello che è un bubone enorme, l'azienda dei trasporti, e i romani quella la vivono sulla loro pelle tutti i giorni. È per questo che poi Marino si è indebolito e politicamente è stato indipendibile, non perché ha toccato pseudopoteri forti, tra l'altro dalle analisi di Cantone, del prefetto, il comune ha continuato a dare i lavori molto spesso senza gara, più o meno in continuità con quanto aveva fatto Alemanno su questo, per cui anche su questo non è che c'è stato uno scatto di moralità come ci si poteva aspettare. E soprattutto in vista del giubileo, Marino non sembrava adeguato a gestire quella massa di lavori che ora arriveranno e che deve essere poi la priorità per tutti noi, perché noi ora stiamo parlando delle prossime elezioni e io spero che a Roma non si parli solo di quali saranno i candidati e di come i partiti si divideranno per trovare dei candidati. Ricordiamoci che sta arrivando un giubileo che Roma deve essere in grado di gestire. In questo senso fammi dire che è positivo che oggi all'incontro, alla fine dell'incontro Renzi e Orfini, invece di parlare facciamo le primarie, non facciamo le primarie, quale sarà il cambiamento. Ha detto non è questo il momento. Non è questo il momento e hanno ho varato subito uno stanziamento di 30 milioni per il giubileo che la Giunta, anche se in ordinaria amministrazione, già credo martedì, potrà ripartire tra i singoli lavori di Roma in modo che non si blocca il cantiere del giubileo, perché questa sarebbe davvero l'ennesima beffa di questa storia tutta molto negativa. Dice Marino, vediamo, sentiamo anche quest'ultimo passaggio a proposito di cosa verrà dopo di lui il diluvio forse, sentiamo. Spero e prego che questo lavoro, in un modo o nell'altro, venga portato avanti, perché non nascondo di nutrire un serio timore che immediatamente tornino a governare le logiche del passato, quelle della speculazione, degli interessi illeciti privati, del consociativismo e del meccanismo corruttivo mafioso che purtroppo ha toccato anche parti del Partito Democratico e che senza di me avrebbe travolto non solo l'intero Partito Democratico, ma l'intero Campidoglio. Ultimo commento, che dice Fabrizio Forché? Poi ci sarebbero le riforme, ci sarebbero anche le unioni civili, abbiamo avuto, c'è stato Scalfarotto e Labinetti insieme due sere fa, però di questo torneremo a parlare perché ce n'è ancora, andranno avanti sì, ancora. No, ma soprattutto questa è stata la settimana in cui abbiamo praticamente quasi approvato la riforma, una storica riforma costituzionale. Ora il caso Marino non ci deve far dimenticare questo, che è davvero un passaggio storico. Oggi sono stati votati tutti gli ultimi emendamenti. E il martedì avremo il voto finale sul provvedimento. Questa è davvero una rivoluzione per le nostre istituzioni, per cui, come dire, io ho fatto la mia piccola battaglia sul giornale per mantenere accanto al caso Marino uno spazio adeguato per quella che è davvero una riforma importante. Quindi torneremo a parlarne, perché appunto il voto finale ci sarà martedì, noi ci ritroviamo venerdì. Su questo ha tenuto la maggioranza, bisogna vedere sulla questione delle unioni civili, perché vorrebbe il PD incardinarla subito dopo, però c'è il nuovo centrodestra che continua a tirare, a dire no, non siamo d'accordo, e potrebbero crearsi maggioranze trasversali. Ecco. Sì, la maggioranza su questo potrebbe davvero o vedere una fuoriuscita dell'NCD, del gruppo di Alfano. Non è un mistero che molti senatori di NCD e parlamentari in generale di NCD non voterebbero questa riforma. Ma per questo ci diamo appuntamento la prossima settimana. Grazie Fabrizio Forché. Grazie a voi. Buon fine settimana. Ciao Fabrizio. E intanto, prima di lasciarci brevemente una pausa di creazione, sulla pagina Facebook, per esempio, Maria Giovanna scrive: ma credete che a Trento o a Palermo interessi l'analisi dello psicodramma romano di Marino e del PD? Boh, dice lei, ma insomma, intanto è il sindaco della capitale, non di un paese qualsiasi, e poi PD e via, mi sembra che sia il partito di maggioranza relativa, se non discutiamo di queste cose in Italia, di cosa dobbiamo parlare? Giuseppe, già, è tutta colpa di Marino, chi lo ha preceduto ha lasciato una città perfettamente funzionante, niente ha pestato i piedi a qualcuno e non ha voluto favorire qualcuno. Ci sentiamo dopo. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Continuano i vostri messaggi sulla vicenda Marino, per esempio c'è Elena da Roma che dice: per me il PD si dà l'ennesima zappa sui piedi, se fanno fuori Marino campano fino alle elezioni, poi li fanno fuori e io temo Marchini, c'è uno dei possibili candidati con la sua lista civica. Ma adesso vi ricordo le notizie più importanti e poi andiamo su un'altra di queste. Le dimissioni di Marino verranno depositate ufficialmente lunedì, durissimo il Vaticano che dice lascia solo macerie e si apre il totonomi dei partiti. Medio Oriente, violenti scontri a Gaza, ne parleremo tra pochissimo. Stati Uniti, sparatoria in una università del Texas, un morto, il killer è stato arrestato. La denuncia dell'ONU, bimbi uccisi in Brasile per ripulire Rio in vista delle Olimpiadi dell'anno prossimo. Politica italiana, per il nuovo Senato manca solo il voto finale, Renzi commenta e dicevano che non avevamo i numeri. Scuola, studenti in piazza oggi contro la riforma in 60.000 città e poi migranti con oggi partita la prima parte di ricollocamenti, maltempo, allarme in Sardegna, codice rosso e scuole chiuse, temporale in arrivo su tutto il centro-sud. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet for its decisive contribution to the building of a pluralistic democracy in Tunisia in the wake of the Jasmine Revolution of 2011. E così siamo arrivati fra i vari Nobel di tutta questa settimana, al Nobel per la pace. Oggi si erano fatti vari nomi, questo è l'annuncio che è andato all'Accademia di Stoccolma, i nomi dalla Merkel alla sindaca di Lampedusa, e alla fine invece il premio è andato al quartetto per il dialogo in Tunisia, avete sentito, per aver contribuito alla transizione verso un paese democratico dopo la rivoluzione dei Gelsomini del 2011. Ne parliamo con Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. Questo quartetto, ricordo, è formato da 4 organizzazioni della società civile tunisina: il Sindacato Generale dei Lavoratori, il Sindacato Patronale e poi l'Ordine degli Avvocati, la Lega Tunisina per i Diritti Umani. È, diciamo Alberto, un premio che è una grande vittoria per questa democrazia ancora fragile di Tunisi, ma che forse è l'unica quasi compiuta dopo le primavere arabe, no? Ma sì, non c'è dubbio, è un incoraggiamento anche alla Tunisia che sta proseguendo sulla sua strada democratica, nonostante le grandi difficoltà, perché questa democrazia tunisina è stata sottoposta a prove durissime. Negli anni scorsi sono stati assassini politici importanti, poi c'è stato un lungo periodo in cui gli al-qaedisti e i salafiti si sono impadroniti delle università, delle moschee, e infine poi è arrivato anche il califfato con i 2 spaventosi attentati, uno al Museo del Bardo e l'altro sulla spiaggia di Sousse. Insomma, però ogni volta i tunisini sono scesi coraggiosamente in piazza per difendere la loro democrazia, hanno varato una costituzione che è la più avanzata della regione, e quest'anno Freedom House, che è un'organizzazione che si occupa della libertà nel mondo, per la prima volta ha dichiarato la Tunisia paese libero ed è l'unico definito in quanto tale in tutto il mondo arabo musulmano. Quindi insomma siamo di fronte a una grande vittoria, è un riconoscimento, però attenzione perché qualcuno faceva giustamente notare: che cosa diamo noi alla Tunisia per sostenerla? Beh, nel 2011 a Deauville un G8 abbastanza pubblicizzato disse: si vara un piano Marshall per i paesi che sono usciti dalle primavere arabe, anche per la Tunisia, a cui furono promessi 20 miliardi di dollari, che sono il 6% per esempio degli aiuti che sono andati alla Grecia per ripagare il suo debito estero. Ebbene, di quei soldi la Tunisia non ha visto quasi nulla, quindi è vero che è stato abbattuto un dittatore, però le promesse e bugiarde per i tunisini continuano. È fatto bene a ricordarlo, davvero, un premio Nobel davvero meritato questo, a questa battaglia coraggiosa, battaglia vinta, ma che avrebbe bisogno di sostegno. Senti, Alberto, prima di lasciarci, ci dici proprio una parola su quello che sta succedendo in Israele? In Palestina sta succedendo purtroppo una sorta di intifada, che noi la definiamo intifada noi giornalisti per comodità anche mediatica, ma a me pare più che altro la rivolta della disperazione, anche se poi c'è stato questo appello a liberare Gerusalemme da parte del leader di Hamas, ma la verità è che purtroppo la famosa formula due popoli, due stati sembra ormai completamente naufragata, insieme a negoziati di pace che non sono mai ripresi, mai ricominciati. Beh, anche qui l'altro giorno alle Nazioni Unite, qualche giorno fa, hanno innalzato la bandiera palestinese, ma più che una bandiera che significa la speranza di uno Stato, di una pacificazione, sembra quella di una resa alla violenza. Grazie Alberto Negri. Ciao Alberto. Grazie a voi. Via vita. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E rieccovole brevemente, abbiamo appena parlato del Nobel per la pace che è andato al quartetto del dialogo in Tunisia per il contributo alla costruzione della democrazia, e poi per quanto riguarda il Medio Oriente, i palestinesi, 6 morti negli scontri con l'esercito israeliano, continuano le violenze, anche di questo ci siamo appena occupati. Le dimissioni di Marino saranno ratificate lunedì, il Vaticano dice lascia solo macere, è iniziato il toto nomi per il dopo Marino, il nuovo Senato ha approvato gli ultimi articoli e martedì ci sarà il voto finale. Europa 24 notte. Parliamo della pesca europea. Sulla pesca la prossima partita importante per ottenere i fondi europei si giocherà sulla tutela dell'ambiente e delle risorse. La Commissione europea da tempo si sta battendo perché i parametri del pescato siano rispettosi dell'ambiente, e per ottenere migliori risultati sulla tutela ittica c'è bisogno anche di una nuova generazione di pescatori che siano, come già avviene in agricoltura, formati e capaci di rivolgersi anche alle nuove tecniche di acquacoltura. Per l'Italia si tratta di un'occasione che non deve andare sprecata. In ballo ci sono parecchi fondi europei per un settore che, nonostante la crisi, resta molto forte. 30.000 persone impiegate nel settore ittico in Italia, 2,2 miliardi di euro fatturati, 12.000 imbarcazioni italiane che rappresentano il 14% della flotta europea. Con questi numeri l'Italia non può proprio permettersi di restare indietro sul tema ittico, anche perché a livello europeo i lavori vanno avanti e i fondi a disposizione cominciano ad arrivare grazie alla nuova politica comunitaria europea della pesca. In particolare l'attenzione è rivolta alla sostenibilità ed è lì che si gioca la partita per ottenere fondi comunitari. Come ci spiega Giuseppe Castiglione, sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con delega alla pesca, che rappresenta il governo italiano a Bruxelles. La politica comune della pesca è entrata in vigore 1 gennaio del 2014, soprattutto sono stati individuati alcuni strumenti su cui vogliamo lavorare, per esempio penso ai piani pluriennali di gestione della pesca, l'obbligo di sbarco di tutte le catture, l'adattamento della flotta. C'è un tema che è obiettivamente il tema centrale, il tema della tutela della risorsa. Noi, il tema prioritario per noi è quello della tutela della risorsa, quindi su questo abbiamo lavorato e utilizzeremo tutti gli strumenti che la nuova politica comune della pesca ci mette a disposizione. La Commissione ci dice la sostenibilità deve essere certamente ambientale ed è prioritaria, ma deve essere anche una sostenibilità economica, deve essere anche una sostenibilità sociale, quindi questo è uno dei punti forti su cui abbiamo lavorato. Utilizzeremo queste risorse, per esempio per tutto il tema della sostenibilità, noi avremo a disposizione circa 1 miliardo di euro, quindi questo miliardo di euro lo investiremo per la sostenibilità, dicevo, della pesca, lo utilizzeremo per l'acquacultura, per esempio uno dei temi su cui dobbiamo lavorare e stiamo lavorando è quello, lo sviluppo dell'acquacultura. Ci stiamo dotando anche di attività di controllo sulla raccolta dati scientifici, che è un altro perno, un altro pilastro, cioè l'acquisizione di dati scientifici che ci dà maggiore forza, ci dà maggiore autorevolezza e quindi ci dà la possibilità di poter pianificare, di poter programmare. Nel tempo dunque quello che occorrerà sarà una figura professionale capace di gestire più informazioni. Il settore pesca deve darsi una mossa, come sottolineano gli addetti ai lavori. Riccardo Giannone, che in Regione Liguria gestisce il settore politiche agricole della pesca, il tema lo conosce bene, anche perché in generale il calo dei giovani lì è forte. Le nostre unità produttive sono molto piccole, molto più piccole della media nazionale, quindi diciamo l'impatto della normativa europea, dell'etichettatura dei prodotti e tutto questo, diciamo quello che possiamo generalmente intendere come burocrazia su unità produttive molto piccole, ovviamente un impatto molto più difficile, considerato anche che l'età media dei pescatori è piuttosto elevata, come anche del resto l'età media delle barche, diciamo così. Noi abbiamo dei fondi che generalmente nell'ambito dei programmi finanziati dai fondi europei, quindi dal Fondo Europeo per la pesca in questo periodo di programmazione e prossimamente dal Fondo Europeo per la pesca e gli affari marittimi, destinati appunto all'incentivazione dell'avvio di imprese condotte da giovani o anche all'avvio di attività complementari, per esempio l'ittiturismo. Manca un po' tutto il settore della formazione, diciamo, scolastica o comunque professionale. Io mi occupo anche di agricoltura oltre che di pesca, quindi nel settore dell'agricoltura esistono scuole medie superiori, università. Nel settore della pesca non c'è niente di tutto ciò, non esiste una scuola che formi i pescatori, che questo effettivamente è un problema, perché comunque dall'innovazione e dalla formazione non, il settore non avrebbe che da guadagnare. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso non possiamo mancare l'appuntamento col tempo, nel senso che tempo fa con il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Paolo? Buonasera Roberta. Portatore sano di sole, io dico sempre, quindi mi raccomando, è una responsabilità. Lo so, ma stavolta è proprio difficile, perché guarda, ci attende purtroppo un weekend tipicamente autunnale, soprattutto al centro-sud. E non si scherza, tra l'altro, perché arriva l'ennesima forte perturbazione, zona di bassa pressione, che poi è un ciclone, ma nulla a che vedere con gli uragani, ma intenso, e quindi già al momento sta piovendo in molte zone del centro-sud, e domani sarà la giornata peggiore, perché non solo le piogge saranno intense, ma ci sarà anche vento forte, temperature in diminuzione, mare molto mosso, insomma, chi più ne ha chi ne metta, davvero l'autunno al centro-sud mostrerà la sua faccia peggiore. Invece il nord in qualche modo è solo lambito da questa perturbazione, quindi si nuvole nella giornata di domani, ma senza grandi piogge. E comunque domenica per tutta Italia ci attendiamo un miglioramento, torneremo a vedere un po' di sole, quindi si chiude il weekend con qualche speranza in più, diciamo. Premio di consolazione, va bene. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te. Grazie, buon tempo a tutti. Ciao Paolo. E adesso tempo ancora pochino, sì, per i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a parte il 349-238-6666. Andiamo sulla pagina del programma. Elvi scrive: Marino ha pestato i piedi alla mafia. Mario, il Vaticano, convocando il giubileo a pochi mesi dall'inizio, ha imposto lavori pubblici in deroga che alimentano la corruzione. Complimenti, dice Alessandra. Scrive: al comune è dura resistere per tutti, avanti il prossimo. Mattia: difficile prendere posizione quando non si dispone di tutti quei dati che rimangono nascosti nei retroscena politici. E ancora un ascoltatore che scrive invece ai messaggi: Marino è un fallito per i romani, perché non ha rubato come Alemanno, Veltroni e Rutelli. A Roma, se non rubi sei un fallito. Mentre un altro scrive: Renzi, mettete anche un nome d'arte, Renzi alle elezioni capitoline dovrebbe fare come per i direttori dei musei, chiedere la candidatura di Rudolf Giuliani o Bloomberg. Giuliani penso sia in pensione a questo punto, non lo so, però lo si può richiamare nel caso. Noi ci risentiamo alle 22.